noi passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:39 minuti in questo momento, numeri di telefono per chiamarci in diretta 800 24 00 24 e il numero verde per le vostre telefonate. Andiamo anche a darvi il numero di messaggio SMS 349 238 6666 e l'indirizzo mail lazanzara@radio24.it, subito i titoli del TG2. Berlusconi sul piano casa dopo l'incontro con le regioni, pronti a confrontarci, vogliamo sintonia. Al via un tavolo tecnico, martedì il nuovo progetto. Nel palermitano il proprietario di un casolare aveva collegato con un filo il fucile alla porta d'ingresso. Il congegno ha ucciso un uomo di 32 anni che tentava di entrare. Traffico internazionale di sostanze dopanti per atleti e frequentatori di palestre, raffica di arresti e perquisizioni in Emilia-Romagna, Campania e Sardegna. Torna al cinema Fast and Furious, quarta puntata della spettacolare saga su quattro ruote. Protagonista Vin Diesel tra auto truccate e inseguimenti mozzafiato. Dopo i titoli del TG2 sentiamo quelli di Studio Aperto, sempre 18:30. Nessun passo indietro sul piano casa, dichiara Silvio Berlusconi dopo l'incontro con le regioni. Un provvedimento che riguarda il 50% delle famiglie. La bozza definitiva entro martedì. Franceschini, pronti a dialogare ma no a cemento selvaggio. Un colpo sordo e Gabriele si è accasciato, lo racconta il processo di Arezzo, un amico di Gabbo. Spacca rotella, sparato a gambe larghe e braccia tese e aggiunge chi era la guida dell'auto dei tifosi romani. Per mamma Sandri è stato come rivivere un incubo. Processo Thyssen, trasmessa in aula l'animazione digitale che ricostruisce il rogo sulla linea 5. Ecco come la vampata di fuoco ha ucciso 7 operai. Durante la proiezione i familiari delle vittime hanno pianto, qualcuno ha mormorato assassini. A soli 11 anni un bimbo americano rischia l'ergastolo per duplice omicidio. Jordan Brown è accusato di aver ammazzato la fidanzata del padre incinta di 9 mesi. I giudici hanno deciso, sarà processato come un adulto. Bene, erano i titoli principali di Studio Aperto, 800 24 00 24. Beh, insomma, uno dei titoli del telegiornale d'Italia 1 è davvero incredibile. Nessuna marcia indietro sul piano casa, dice Berlusconi. Beh, insomma, qualche marcia indietro c'è stata, evidentissima, chiara. Berlusconi aveva già detto che l'idea del piano casa era venuta durante una passeggiata, un colloquio informale con il suo avvocato Ghedini. Si deve essere entusiasmato all'idea, dunque l'ha detta, ne ha parlato in televisione, eccetera. Poi però i dettagli sono importanti. Si è arrivati a capire che non si può fare senza un accordo con le regioni, non si può fare probabilmente il decreto legge. Insomma, la situazione è ingarbugliata. Si è arrabbiato Giuliano Ferrara questa mattina dicendo: ma come, insomma, c'era la carta intestata Presidenza del Consiglio, abbiamo parlato del piano casa perché la Presidenza del Consiglio ci aveva dato tutti i dettagli, adesso non si fa più nulla. Non so, anche questa legge che a me tra l'altro fa comodo, no? Di allargare la casetta per i figli. Sì, ma tanto ha già fatto, guardi, non me ne parli, oggi ce l'ho con Berlusconi, ha già fatto una mezza marcia indietro, pare che la ritiri. Ha detto che il documento di cui abbiamo discusso ieri mattina qui alla radio con tutti quanti, gli arrivati, dice è falso. Ma come è falso? C'è la intestazione Presidenza del Consiglio, i destinatari, i presidenti delle regioni. Non mi parli di Berlusconi, per favore, stamattina sono veramente arrabbiato. Sono arrabbiato, e beh, insomma, arrabbiato Giuliano Ferrara, ma noi siamo sconcertati, diciamo, più che arrabbiati, perché ormai gli annunci va bene, poi bisogna metterci dei contenuti e questi contenuti ancora non si conoscono. 800 24 00 24. Discussioni intorno al fatto che Berlusconi sarà capolista del PDL alle elezioni europee. Non è ancora ufficiale, ma sarà così. Secondo il Partito Democratico è un imbroglio. D'Alema. Ma innanzitutto, per esempio, facendo una cosa che nessun leader europeo fa, perché nessuno può neppure immaginare che Sarkozy o la signora Merkel si candidino alle elezioni europee, per la semplice ragione che i capi dei governi sono incompatibili con i parlamenti. I parlamenti sono lì per controllarli, i governi europei. Quindi non potendo essere eletti, i leader europei non si candidano alle elezioni europee. Questa è una delle anomalie del nostro paese. Perché lo fa Berlusconi dal suo punto di vista? Lo fa perché il partito di Berlusconi è Berlusconi, il programma del partito di Berlusconi è Berlusconi, il simbolo del partito di Berlusconi è Berlusconi. Questa è l'idea di D'Alema. L'imbroglio di cui parla Franceschini ed è naturalmente un argomento importante e secondo me in parte anche vero, perché comunque si presenta il leader della governo sapendo già che non sarà eletto al Parlamento europeo. Bisogna dire che gli elettori già lo sanno che Berlusconi chiaramente non sceglierà il Parlamento europeo ma resterà a fare il Presidente del Consiglio. Ma non è un imbroglio anche il fatto che moltissimi deputati di destra e di sinistra dal 2004, quando ci furono le ultime elezioni europee, poi dopo un anno, dopo due anni, chi dopo tre, siano migrati in Italia per le cariche più disparate, sindaci, controsindaci, governatori, centrosinistra e centrodestra, e poi faremo i nomi. Intanto la risposta a D'Alema di Fabrizio Cicchitto, uno dei capi del PDL. Si sono presentati alle elezioni altri leader anche del centro-sinistra e lo reputo normale perché le elezioni europee comunque rappresentano emblematicamente una scadenza di confronto politico. Che Franceschini si presenti pure lui e chi lo sa quanti voti trascina e recupera, quindi facciamo una bella gara tra chi prende più voti, tra Franceschini e Berlusconi. Presidente D'Alema. Il dibattito è bello perché è vario, però bisogna confrontarsi. Non sparare a priori terrorizzati del fatto che Berlusconi si presenta alle elezioni. Allora, il punto è questo, che ogni elezione in Italia è una sorta di apocalisse, una sorta di resa dei conti. Invece di mandare in Europa persone che fanno il lavoro di parlamentari europei, le elezioni vengono interpretate dai partiti politici, anche il Partito Democratico, come una sorta di giudizio finale. Ed è per questo che poi si candidano quelli che non dovrebbero candidarsi. Massimo D'Alema, per esempio, che ieri polemizzava su questo, è stato eletto al Parlamento europeo nel giugno del 2004. Si è dimesso con un sacco di voti, naturalmente. Si è dimesso nell'aprile 2006 per entrare come ministro nel governo Prodi. Non è anche questo un imbroglio nei confronti dell'Europa, se vogliamo chiamarlo imbroglio? Nei giorni in cui si viene a sapere che il Sudafrica nega il visto d'ingresso al Dalai Lama fino ai mondiali, per i rapporti molto stretti che ci sono, soprattutto dal punto di vista commerciale tra Sudafrica e Cina, e che la Cina, e questa non è assolutamente una novità, detiene il record mondiale di condanne a morte, leggiamo anche, per me devo dire è una notizia che mi ha colpito, mi ha sconvolto, se vogliamo, perché non la sapevo, sarò stato distratto, che c'è una tecnica utilizzata dai cinesi per risparmiare e per fare più in fretta. Sono solo questi forse i motivi, non lo so. Filippo Facci, buonasera. Sì, eccomi. Utilizzare degli autobus, iniezione letale a bordo mentre si dirige al più vicino ospedale per l'espianto degli organi. Ne parli tu questa mattina in un articolo sul Foglio, poi leggo anche delle notizie sul sito internet del Corriere della Sera. Anche qui la notizia non è nuova, credo che tu, che sei attento alle cose cinesi, l'hai scritta più volte. Cosa succede? Cosa succede allora, concretamente? C'è un'evoluzione, diciamo, in questo tipo di dinamica, diciamo che in Cina, vabbè, ci sono vari sistemi di esecuzione, il più diffuso rimane la fucilazione, tra l'altro le famiglie sono tenute a rifondere il costo delle pallottole, poi c'è l'impiccagione eccetera, però venne fuori, ecco, qualche anno fa, dal 2001, che fecero queste, le chiamano o chiamavano camere mobili di esecuzione, cioè praticamente dei camioncini, insomma, usi a raggiungere direttamente il luogo delle esecuzioni affinché appunto il malcapitato venisse legato a un lettino di metallo, siringato letalmente, e il tutto controllato da un monitor appunto posto accanto al posto di guida e prima di ripartire, insomma, verso altri luoghi dove direttamente nelle carceri, insomma, all'interno di una determinata zona, e questi pulmini appartenevano ai tribunali, appunto, si potesse risparmiare sui costi di viaggio. E che è una cosa, diciamo, una fase precedente a questi pullman che oggi fanno vedere sul sito del Corriere della Sera, che sono dei veri e propri pullman invece più grandi, perché intanto si sono evoluti e hanno, diciamo, solo in termini quantitativi aumentato uno degli altri obiettivi che questi pullman hanno, che è quello di conservare subito gli organi che vengono espiantati i quali in Cina vengono espiantati senza porsi problemi, insomma, troppi problemi, perché in Cina il corpo appartiene allo Stato, non è roba tua, quindi espiantano gli organi per le produzioni più varie, che tra i quali spicca la cosmetica anche occidentale, insomma, in particolare. C'è una cosa che mi ha colpito molto, se posso dirla. Sì. E così non voglio giocare a fare il dietologo, però insomma mi limito a rilevare una cosa. Questo articolo di oggi ha stupito un po' anche me, parlo dell'articolo che ho letto sul Corriere.it, perché parla solo di questi pullman moderni, spiega che costruiti dalla Chongqing della Jingguan Auto, insomma, mi scuso, non so il cinese, però io ho scritto varie volte che nel 2001, a dire il vero, i fornitori di questi primi furgoncini era l'Iveco Fiat. Addirittura? Cioè l'Iveco, sì, della Fiat forniva questi camioncini senza sapere, immagino, senza sapere, spero, a cosa servissero. Allora, la cosa è andata così. Nel 2001 c'era comunque la joint venture con la Fiat dei cinesi per produrre specificamente i furgoni Iveco Daily, che poi in Cina, appunto, non si sa con quale consapevolezza della Fiat, erano trasformati in queste, appunto, cosiddette camere mobili di esecuzione, appunto, che facevano. Poi, insomma, la cosa si è risaputa, le organizzazioni sanitarie, eccetera, eccetera. Allora c'è Amnesty International che alla fine del 2003 proprio scrisse pubblicamente alla Fiat per dissuaderla, insomma, da questa produzione un po' funerea, però la Fiat rispose che insomma non era in grado di verificare l'uso che venisse fatto successivamente alla loro produzione dei propri veicoli. Però è un problema che in ogni caso andò risolto in un altro modo, insomma, perché l'Iveco, a un certo punto l'Iveco Fiat in Cina, si accorse che c'era un ammanco di 122 milioni di yuan, cioè insomma più o meno 12 milioni di euro, e insomma ci fu una denuncia, insomma alla fine la joint venture di Iveco Fiat con il cinese è saltata, e quindi non sono stati più prodotti neanche questi Iveco Daily, cioè queste camere mortuarie, insomma, e magari non in nome dei diritti umani, però insomma non sono stati. Ma è vero quello che leggo, credo che un articolo, quello sul Corriere.it ripreso dall'Independent, che è, sì, che la Jingguan, che è questa azienda che fornisce i pulmini, invita governi stranieri che fossero interessati a mettersi in contatto per non so che cosa, si assicura riservatezza e buoni prezzi, che significa? Cioè per cercare altri pulmini? Ma io, se ho capito bene, però non sono assolutamente, sì, sicuro di aver capito bene, perché francamente, ecco, un'informazione che filtra dalla Cina, cioè sappiamo che tra le varie notizie che riguardano la Cina in questi giorni c'è anche, non dimentichiamo che YouTube è stato oscurato 2 giorni fa. Io credo che nel loro cinismo i cinesi, da quel che ho capito, enfatizzando la funzione di conservativa in termini di refrigerazione degli organi, pubblicizzino, diciamo, questi pulmini specializzati, di modo che ovunque vengano fatte delle esecuzioni, insomma, questi pulmini garantirebbero il trasporto in condizioni ideali fino agli ospedali, eccetera, eccetera. Ah, degli organi, certo. È come, insomma, il furgoncino dei gelati. Invece è il furgoncino degli organi dei condannati. Mi scappava quasi da ridere, ma non c'è, naturalmente non è il caso di ridere. Grazie. No, soprattutto, e chiudo se dicessimo, sì, che funzione ne viene fatta, io penso che ci sarebbero molte donne occidentali che smetterebbero di usare determinate cremine. Grazie a Filippo Facci, 18, 54, 55 secondi. Roberto da Firenze, buonasera. Buonasera. Pronto? La sento, dica pure. Ah, senta, ieri sera ho visto Ballarò, l'intervento di D'Alema, e mi è sembrato molto supponente, proprio da sinistra salottiera, anche in confronto alla Meloni, che gli ha risposto un po' per le rime. Io sono contento che il Partito Democratico abbia questi dirigenti, perché essendo un uomo di destra vinceremo per 500 anni, però questa puzza sotto il naso. Se era un altro comunistello avrei detto discorsi da bar, essendo lui dico discorsi da barca. Sì, però Roberto, cerchiamo di andare oltre queste cose. I talk show televisivi sono costruiti per le battute, per interventi di questo tipo, non è che serve nient'altro, e D'Alema è molto bravo. La ringrazio. Bruno da Torino. Bruno, mi sente? Sì, sento. Buonasera. Dica. Intervengo per questo, piano casa. Allora, lodevole a mio avviso l'obiettivo del governo nel voler rilanciare l'edilizia con questa mossa. al di là di come si concluderà poi con le regioni, però a mio avviso l'incentivo andrebbe indirizzato a chi la casa non ce l'ha, perché chi già ce l'ha in questa occasione ha l'opportunità forse anche di speculare senza averne più di tanta necessità o voglia, si trova nella condizione. Ho capito. Bisogna fare un piano, non so, sugli affitti o sull'edilizia popolare. Andiamo subito a sentire i titoli dei telegiornali delle 19 TG3. Le regioni dicono no al decreto sul piano casa, slitta il provvedimento, Franceschini ok al confronto, ma vigileremo contro le devastazioni. Biotestamento, nutrizione e idratazione saranno obbligatorie, bocciato in Senato l'emendamento che permetteva libertà di scelta ai pazienti terminali. Credito, scattano le misure anticrisi, via i Tremonti Bond e i controlli dei prefetti, per il leader degli industriali niente più alibi per le banche. Lavoro, alta tensione in Francia, sequestrato il direttore di uno stabilimento che preparava licenziamenti, sotto accusa i premi per i dirigenti. Al processo per la morte di Gabriele Sandri i suoi amici accusano, la gente aveva le gambe larghe, le braccia tese e impugnava la pistola. 40 anni dopo i mostri, capolavoro di Dino Risi, torna un film su vizi e cinismo degli italiani, ma i veri mostri di oggi, dice Abbandantuono, non fanno ridere. Eccoci qui, c'è una notizia di ieri sera, curiosa e però significativa del modo di fare di alcuni magistrati in Italia. Ve la leggo così come dettata dall'ANSA. Nonostante abbia alle spalle un ricchissimo curriculum penale e una lunga serie di arresti, un pregiudicato ha ottenuto gli arresti domiciliari dal giudice per le indagini preliminari di Viterbo, Rita Scialoni, per accudire il cane che da alcuni anni vive con lui. Marco Zena, 38 anni, era stato arrestato per l'ennesima volta nei giorni scorsi perché trovato in possesso di alcune dosi di droga. Da allora il cane, secondo il suo avvocato, è rimasto incustodito in casa. Da qui la decisione del GIP di far tornare l'uomo a casa in attesa del processo. Quel bastardino, dice l'avvocato Franco Taurchini, è l'unico compagno che gli è rimasto e se il mio assistito fosse rimasto in carcere non ci sarebbe stato nessuno disposto ad accudire l'animale, che sarebbe certamente morto di fame e di stenti. Il GIP ha compreso la situazione e gli ha concesso i domiciliari. Zena, tuttavia, lo spacciatore, non potrà accompagnare il cane a spasso, ma si dovrà limitare ad aprirgli la porta dell'appartamento per farlo uscire. Una volta soddisfatte le sue esigenze, la bestia tornerà da sola a casa. Non appena si è diffusa la notizia della scarcerazione di Zena, sembra che molti pregiudicati viterbesi abbiano preso d'assalto negozi di animali per acquistare cani o gatti. Ora, io credo che non siamo al primo aprile ancora, mancano pochi giorni, però o è uno scherzo questa agenzia ANSA di ieri sera, da cui un bel articolo di Massimo Gravellini questa mattina sulla Stampa, oppure non so, ditemi voi se è possibile una cosa di questo tipo nella giustizia italiana. I titoli di Sky. Confronto con le regioni, il piano casa slitta e forse non sarà un decreto. Il PD apre al confronto su un nuovo testo, ma vigileremo sull'ambiente. C'è il bando dei Tremonti Bond, le banche non hanno più alibi, dice la Marcigaglia. Rai nominato il nuovo CDA, domani l'ufficialità di Garimberti, presidente. Milano-Roma, all'Italia la raccoglie la sfida del treno, la tratta verrà potenziata. Ex pentito ucciso in strada a Bari, ma per gli inquirenti non è una vendetta. Manuale sul web per costruire bombe e armi chimiche, 5 indagati a Catania. Mussolini statista, Fini dice no, non rinnego le scelte degli ultimi 15 anni. Crisi economica, ora la Casa Bianca cerca il consenso del Congresso. I sogni, musica, esce Gianna Dream, nuovo album della Nannini. 1922 800 24 0024. Qualche volta il risarcimento a una ingiusta detenzione, come è accaduto per il romeno Carol Raz, faccia da pugile, così era stato soprannominato dalla Stampa, può arrivare anche attraverso la televisione. La televisione, l'abbiamo detto già ieri, che prima può affossarti, può distruggersi con i suoi titoli molto secchi, con articoli e con servizi fatti apposta per farti sembrare colpevole, e poi può addirittura rappresentare una possibilità di lavoro. Ieri sera il romeno, scagionato da tutte le accuse di stupro, prima quello della Caffarella, poi quello di Prima Valle, è stato ospite, molto protetto dal suo avvocato, prima ha rifiutato qualsiasi intervista, di Porta a Porta, dunque ospite di Bruno Vespa, che lo ha introdotto in questo modo. Buonasera, il pubblico di Porta a Porta, con noi in studio stasera Carlos Raz, un rumeno, cittadino rumeno di 36 anni, che è stato scarcerato ieri sera tardi dopo 35 giorni di carcere patiti ingiustamente come autore, coautore anzi, di due violenze sessuali molto pesanti. Ecco, è stata una trasmissione, una confessione in romeno con la traduttrice, sentirete, secondo me anche un po' costruita, come è normale in questi casi. Raz ha parlato per esempio del fatto che voleva farsi prete addirittura a un certo punto. Posso chiederle se c'è stato un momento in cui voleva diventare prete? Sì, è stato un mio sogno da bambino. Cioè, un sogno da bambino, addirittura diventare prete. E poi il suo sogno attuale, quello di adesso, che è quello di fare il pasticcere. Lei ha mai provato a cercare un lavoro da panettiere, da pasticcere? No, sinceramente no, anche perché ho il grosso handicap della lingua, quindi non ho cercato un lavoro in questo. Le piacerebbe fare questo lavoro? Allora, insomma, avete capito cosa è accaduto ieri, una sorta di risarcimento su Rai 1, nella principale trasmissione di informazione che c'è in Italia, e già oggi uno chef molto noto, Filippo Lamantia, che ha un ristorante a Roma, palermitano, ha offerto un lavoro a Carlo Raz. Vedrete che le occasioni non mancheranno. 800 24 00 24. Il ministro Brunetta colpisce ancora, questa volta lo mettiamo senza sigletta, perché insomma è noto che cosa? Il fatto che Brunetta sia uno che non ha peli sulla lingua. Oggi in una forum all'Unità, e sentirete anche la voce del direttore dell'Unità, Concita De Gregorio, Brunetta ha parlato chiaro sui suoi rapporti con Tremonti. Non ci siamo molto simpatici, lui ce l'ha con me, comunque io sono più intelligente di lui, sentite. Secondo me voi due non vi sopportate. Lui non sopporta me. Come mai? Perché lei è più bravo? È stata detta lei. No, però dica lei, scusi, abbi pazienza. No, siamo diversi. Io devo dire, io sono di buon carattere, sono incazzoso ma di buon carattere, non ho di queste non sopportazioni. Lui invece è pessimo, Tremonti. Io sono di buon carattere. Le scuse all'onda per quella definizione prima di terroristi, che erano guerriglieri anzi, no, nessuna scusa, non voglio chiedere scusa nella maniera più assoluta agli studenti dell'onda. Ma si vuole scusare con gli studenti dell'onda? Ma neanche morto. Ci pensi meglio? Ma neanche ci morto. Pensi meglio. Neanche morto mi scuso con gli studenti dell'onda. E poi dà una notizia: metà dei precari, perché stanno facendo un monitoraggio sul numero dei precari, metà dei precari nella pubblica amministrazione sarebbero in Sicilia. A metà del monitoraggio, con tutta una serie di sistemi analitici, eccetera, eccetera, il fenomeno. Ma la cosa divertente, di cui voi non avete neanche, che metà del fenomeno è siciliano. A metà dei precari sono in Sicilia, allora. Lei bloccherà i precari siciliani? No, è che la loro è una regione a statuto speciale e loro hanno, come dire, piena autonomia da questo punto di vista, e lo stanno usando. Va bene, 800 24 00 24. Parliamo un po' di potere, di quelle che saranno le scelte dei grandi gruppi editoriali dopo la nomina di Garimberti e comunque un assetto della RAI che si sta andando componendo. E il Corriere della Sera, molti parlano di un possibile cambio ai vertici del Corriere della Sera, e una prova sarebbe, secondo alcuni osservatori, per esempio alcune frasi pronunciate da Massimo Pini, che rappresenta sostanzialmente Ligresti, uno degli azionisti del Corriere della Sera, l'altro sera l'Infedele. Pini cosa ha detto? Ha detto il giornale perde copie perché vuole fare il kingmaker della politica, sentitelo. Il giornale perde copie, non va bene, come tutti sanno. Sì, meno 182 milioni di utili rispetto all'anno scorso. E quindi se un quotidiano così importante non va bene, c'è qualcosa che non funziona. E il problema è capire cosa non funziona. Secondo me il problema del Corriere della Sera è che deve liberarsi da questa tentazione di fare il kingmaker, cioè quello che decide abbiamo un potere politico che è tornato forte e quindi non c'è bisogno di nessuno che faccia il kingmaker. Lei è di una chiarezza straordinaria. Il Corriere della Sera negli ultimi tempi aveva la pretesa di fare il kingmaker, cioè di inventare delle situazioni politiche. Siccome, grazie al cielo, la situazione politica italiana si è andata consolidando, è consolidata, queste operazioni non servono più. In più fanno perdere anche i lettori. Perché se facessero guadagnare i lettori, almeno uno dice, beh... Sono suicidati quando Mieli ha fatto la campagna elettorale per Prodi. Vabbè, quest'ultima voce era dell'ex ministro Castelli. 800 24 00 24. Ma voglio chiudere certamente sulla questione del piano casa e con l'audio del giorno, lo chiamiamo così, che è l'arrabbiatura di Giuliano Ferrara nei confronti del Cavaliere. Ma come, insomma, abbiamo parlato di un piano casa con tanto di intestazione alla Presidenza del Consiglio e poi è saltato tutto. Non so, anche questa legge che a me tra l'altro fa comodo, no? Di allargare la casetta per i figli. Sì, ma tanto ha già fatto, guardi, non me ne parli, oggi ce l'ho con Berlusconi, ha già fatto una mezza marcia indietro, pare che la ritiri. Ha detto che il documento di cui abbiamo discusso ieri mattina qui alla radio con tutti quanti, gli arrivati, dice è falso. Ma come è falso? C'è la intestazione, Presidenza del Consiglio, i destinatari, i presidenti delle regioni. Non mi parli di Berlusconi, per favore, stamattina sono veramente arrabbiato. Ma come è falso? C'è la intestazione, Presidenza del Consiglio, i destinatari, i presidenti delle regioni. Non mi parli di Berlusconi, per favore, stamattina sono veramente arrabbiato. Eccoci qui di nuovo in diretta con la Zanzara, 19.35, 800 24 00 24. Oggi Giuliano Ferrara è la nostra colonna sonora, arrabbiatissimo con Berlusconi perché ha fatto marcia indietro sul piano casa. Luca D'Ancona, buonasera. Buonasera. Senta, io voglio intervenire sul piano casa dicendo questo. Non capisco quale sia il motivo per il quale tutti alzino questo gran polverone sul documento che sia vero o falso di Berlusconi sul piano casa. Io credo che in questo momento, in questo contesto di crisi, sia il momento piuttosto di rimboccarsi le maniche e lavorare tutti insieme, sia maggioranza che opposizione, affinché magari questa idea, che potrebbe essere buona, possa poter dare dei frutti. Piuttosto che sentire anche un Franceschini che dica siamo pronti a vigilare, come se dovesse andare a badare il lavoro di Berlusconi. Credo che in questo contesto, ripeto, sia il caso di rimboccarsi le maniche e di lavorare per il bene di tutti. Beh, Luca, dovrebbe essere quello che un'opposizione dovrebbe fare in queste situazioni. Naturalmente qui parliamo per l'opposizione in generale, anche quando il centrodestra era all'opposizione non c'era un atteggiamento collaborativo, però insomma non accade in Italia, ci sono sempre contrapposizioni molto forti su tutto. Naturalmente in questo caso il Partito Democratico è preoccupato di alcuni punti del piano casa, su altri sembra disposto a collaborare, vediamo in questa nuova versione. Secondo me è abbastanza incredibile che si annunci una cosa e poi ancora a 2-3 settimane di distanza non c'è una certezza. Si dava per scontato che ci sarebbe stato un decreto legge dopo pochi giorni, poi si è capito che senza le regioni c'erano problemi di costituzionalità, eccetera, eccetera. Luca, la ringrazio. Daniela ci chiama da Milano, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, sono qui col mio cane e devo dire la verità che mi ha fatto molto sorridere quello che lei ha detto a proposito dei cani e delle uscite eccetera. Ma non è questo... una follia animalista, un giudice animalista, ma insomma com'è possibile? Ma io non lo so, ma non è purtroppo di questo che voglio parlare, bensì di una roba molto più seria, che è la questione della Cina. Ho sentito l'intervento del vostro, credo, inviato, no? Che parlava delle nuove modalità di condanna a morte e sono rimasta orripilata. Io ero... Ma in realtà non sono nuove modalità, sono magari sconosciute al grande pubblico. Forse, io ero rimasta al costo della pallottola che veniva mandata in casa ai familiari giustiziati. Abbiamo i pullman, in realtà già li avevamo, i pullman, diciamo che oggi è diventato una notizia più conosciuta perché pubblicata appunto su diversi giornali, ma non è roba nuova. Anch'io l'avevo dimenticata, oggi dunque mi ha colpito risentirla, cioè l'utilizzazione di veri e propri pullman per le iniezioni letali, che hanno il duplice scopo di risparmiare, perché sostanzialmente si va a domicilio dei condannati a morte praticamente, e nello stesso tempo c'è l'espianto degli organi all'interno degli stessi autobus. L'olocausto, eccetera. Ma non ho capito, Daniela, mi scusi. Sì. Che stava dicendo? No, stavo dicendo che tutto questo ha questa parvenza di pseudoscientifico che mi ricorda appunto quello che ho letto rispetto all'olocausto. Mi auguro anche che quanto è stato detto dal vostro corrispondente rispetto a Fiat e camioncini Iveco non sia vero. Sono comunque abbastanza perplessa rispetto al richiamo alle signore che si fanno degli interventi sulla base di non si sa quali sostanze, no? Non so, quello l'ha detto Filippo Facci. Non sapere un po' di più rispetto a questa cosa, però quello che su cui io vorrei riflettere è, allora, l'anno scorso abbiamo avuto le Olimpiadi in Cina, nonostante tutta l'enorme pressione di tutto il mondo a proposito dei problemi sui diritti umani, sì, certo. Quest'anno si verifica esattamente la stessa cosa. No, il problema, la ringrazio Daniela, è che nonostante le Olimpiadi, le promesse eccetera, poi abbiamo visto anche dei numeri pubblicati in questi giorni, poco è cambiato, ma insomma non ci stupiamo nemmeno di questo, la ringrazio. Andrea ci chiama da Milano, buonasera. Sì, buonasera dottor Cruciani. Dica. Io volevo intervenire sul discorso della candidatura di Berlusconi all'europeo, o comunque di un qualsiasi leader politico. Sì. Secondo me, se ci si ragiona un po', come dire, è opportuno che ognuno faccia una scelta di campo, ovvero a livello nazionale abbiamo una legge che in pratica non consente di eleggere i politici, si dà il voto che si metta la croce su Popolo delle Libertà o si scrive Berlusconi o Cicchito o Dell'Utri, non cambia niente, no? Mentre per l'europeo qualcuno si scandalizza perché un leader si candida, invece io penso che a quel punto, se conta il partito, in sostanza che si candidi Berlusconi perché così fa prendere più voti al suo partito è una cosa accettabile. Al contrario, se invece si ritiene che la legge elettorale attuale comunque non va bene, perché comunque no, mi scusi, non ho capito niente, Andrea, mi perdoni. Cosa c'entra la legge elettorale? Mi spiego perché. Se si dice che insomma non è giusto che una persona che poi fisicamente magari andrà poco al Parlamento europeo, a quel punto è un po', viene un po' in mente la legge elettorale nazionale. Ma non c'entra niente, in questo caso ci sono le preferenze, non ha nulla a che fare con la legge elettorale nazionale. Il discorso è semplice, ci sono delle norme che stabiliscono l'incompatibilità. È usanza italiana, non solo nel centrodestra, anche nel centrosinistra, candidare delle persone che sono già incompatibili, poi siccome si può decidere dopo, allora solo successivamente c'è questa scelta, ma all'inizio ci si può candidare. Di più, alcuni partiti, in particolare il PDL in queste elezioni, ma è successo anche nel 2004, candidano persone che già dall'inizio si sa che non andranno a fare i parlamentari europei e invece sceglieranno il Parlamento nazionale, il ruolo di sottosegretario, il ruolo di governo, il ruolo di sindaco, non lo so. Allora, tutto questo ha a che fare con le elezioni europee o con un'altra cosa? Evidentemente ha a che fare con un'altra cosa, cioè con la ricerca del consenso sul piano nazionale per giocare una partita nazionale, punto. Cioè, questa è la cosa. Il Partito Democratico, su questa idea di Berlusconi di essere candidato in tutte le circoscrizioni e poi anche di candidare i ministri, sta facendo una battaglia politica dicendo che c'è un imbroglio agli italiani. Insomma, di questo stiamo parlando. Dunque la legge elettorale non c'entra niente in questo caso, le preferenze, non preferenze, la lista è bloccata, anche perché non ci sono liste bloccate, c'è la legge elettorale proporzionale pura sostanzialmente con le preferenze. Ma io ci vedo onestamente un parallelismo, perché ripeto, se si dà importanza, diciamo così, al voto della persona come era prima, allora mi sembra anche giusto che non lo si accetti, che insomma anche a livello nazionale non si consideri giusto che alla fine si dà il voto al partito e poi il partito elegge i parlamentari che vuole. A livello europeo lo so che la legislazione è diversa, ma a questo punto, ripeto, se non si è d'accordo con la legge che c'è a livello nazionale, non si dovrebbe essere d'accordo neanche con quella, perché, ripeto, si dà il voto alla fine a un'immagine che porta più voti, sapendo che poi non andrà. Se si è d'accordo, allora va bene, altrimenti no. Va bene, d'accordo Andrea, la ringrazio. 19.43 800 24 00 24. Abbiamo con noi Claudio Caprara, che è il direttore di Red TV. Buonasera. Buonasera. buonasera a tutti. Ieri abbiamo ascoltato, tra l'altro, abbiamo rubato, come facciamo di solito qui alla Zanzara, una bella intervista di Antonio Martino realizzata proprio da Antonio Polito su Red TV. Non è che le cose belle o le cose curiose sono solo sulle grandi televisioni generaliste che stanno sui canali. Cerchiamo di fare del nostro meglio. Peraltro questa sera c'era una bellissima intervista del sindaco di Firenze Domenici, sì. Ve la siete perduta, perché insomma sulle cose che state discutendo adesso sulle elezioni europee. No, perché tra l'altro magari il clima informale che c'è spesso, no, nelle televisioni, negli organi di informazione di nicchia, porta magari le persone a essere più a lasciarsi andare a qualche verità, magari, no, come è il caso di Martino ieri. Guardi, noi cerchiamo di mettere a proprio agio i nostri ospiti. Siamo in una situazione anche molto fortunata, perché la nostra sede è a Palazzo Grazioli, sotto casa del Cavaliere, e quindi tutti vengono un po' per curiosità per vedere la televisione e un po' per curiosità per vedere casa del Cavaliere, almeno da fuori. e quindi alla fine, quando vengono qua, delle volte ci capita, per fortuna, di tirare fuori anche delle cose interessanti, insomma. Allora Caprare, io volevo riprendere la discussione su questa campagna che sta facendo, su questo argomento che sta utilizzando il Partito Democratico, Franceschini, ma anche D'Alema ieri sera a Badalò, sul fatto che Berlusconi si presenterà a capolista in tutte le circoscrizioni alle elezioni europee, pur sapendo che naturalmente non metterà piede al Parlamento europeo, perché resterà Presidente del Consiglio. È un argomento serio oppure è un argomento solamente di polemica quotidiana, spicciola, legittima naturalmente, perché si fa politica? Che dici? Guardi, il Partito Democratico in questa fase ha, dal punto di vista della propaganda, diciamo, come si diceva una volta, non troppe armi per essere alla stessa altezza del Cavaliere. L'unica arma che ha, secondo me, è la serietà. E credo che da questo punto di vista il fatto di criticare la scelta di Berlusconi, che peraltro è una scelta tradizionale, visto che ormai da 15 anni che fa la stessa operazione, sì. Anche perché è evidente che il Partito della Libertà è Berlusconi, non è che ci sono, cioè non è fungibile, diciamo, quindi non è sostituibile. Cioè, una liste senza Berlusconi capolista non sono pensabili. Senza Berlusconi il suo popolo, diciamo, potrebbe non essere, non avere il richiamo di andare a votare, per esempio. Esattamente, e quindi che lui sa perfettamente, perché è un uomo di marketing straordinario, che questo è, quindi naturalmente questo vale per il Popolo di Libertà, un 2-3 punti in più nella perché rinunciare allora? Sera, perché rinunciare? Certo. Questa è. E quindi a scapito della serietà, a scapito del fatto che appunto non metterà mai piede al Parlamento europeo, e a scapito del fatto che molte persone questo non lo valutano, vedono Berlusconi e lo votano. Certo, io ho fatto notare una cosa però che ho letto anche sul blog di sul sito L'Occidentale, una cosa scritta da Giancarlo Loquenzi, ed è questa: in realtà se la questione è la serietà, cioè candidare persone che poi fanno il loro lavoro come parlamentari europei, anche il Partito Democratico ha qualche grana, perché D'Alema stesso è stato eletto al Parlamento europeo nel giugno del 2004 e poi si è dimesso nell'aprile 2006 per entrare come ministro del governo Prodi. La stessa cosa è accaduta a Bersani e a Enrico Letta, anche loro si sono dimessi dopo meno di 2 anni per andare al governo nazionale. La Bresso, eletta nel 2004, a maggio del 2005 si dimette per fare il governatore del Piemonte. Non c'è dubbio che lei abbia ragione, la interrompo però sì. Non è del Partito Democratico, che si è dato un codice etico, si è dato delle regole, ritengo che da adesso in avanti sia il caso di seguire queste regole e seguire questo codice etico che si è dato. Quindi mandare in Parlamento persone che faranno i parlamentari, che lo faranno seriamente, che lo faranno possibilmente per tutta la legislatura, credo che sia un elemento molto importante. Come sa, l'altra volta per esempio c'era stato la candidatura di Santoro, che aveva avuto un grande successo e che dopo 2 anni non si è ha lasciato il suo incarico. Io credo che operazioni di questo tipo, dal mio punto di vista di osservatore in questa fase, non si ripeteranno, e questo credo che sia una cosa che va spesa fino in fondo in questa campagna elettorale. No, questa è una risposta interessante. Lei dice sì, anche nel 2004 sono successe alcune cose, c'è stata una migrazione successiva verso poi lidi, diciamo, nazionali, però questo è il passato, non c'era ancora il Partito Democratico, ci siamo dati delle nuove regole, abbiamo dato delle nuove indicazioni e da diciamo, alcuni casi non si ripeteranno. Io sono convinto che non si ripeteranno. Poi appunto ci sono alcune discussioni in atto, sì, che riguardano per esempio il sindaco di Bologna Cofferati, insomma che il presidente della regione Bassolino. Io credo che alla fine queste persone che sono persone che hanno fatto molto per il loro paese, per la loro regione, per la loro città, alla fine credo che non si presenteranno, però questo è uno degli elementi di discussione che saranno anche elementi per capire se le cose che dice il Partito Democratico sono serie oppure no. Io ritengo che lo no, sia. Poi tra l'altro voglio dire, Bassolino, se si dimette da presidente della regione, può candidarsi naturalmente liberamente si può candidare anche restando presidente della regione, non è mica un delitto. Vorrei da lei un giudizio su questa marcia indietro di Berlusconi sul piano casa. È diventato improvvisamente ragionevole il cavaliere, oppure si è accorto che gli ostacoli costituzionali sono che era un'operazione propagandistica e come tale ha funzionato. Però nel merito, nel confronto con le regioni, sono venute fuori tutte le contraddizioni di quella proposta, quindi ritengo che non ci fossero assolutamente le condizioni per andare a un nuovo scontro istituzionale, non solamente con il Presidente della Repubblica, ma anche con 20 Presidenti di Regioni, non tutti diciamo comunisti come dice lui, ma a cominciare dal Presidente Lombardo, dal Presidente Formigoni, insomma persone che in qualche modo hanno a che fare tutti i giorni con quella che è la realtà del governare zone importanti del nostro paese. Un'ultima cosa riguarda una questione di potere che magari interessa poco i nostri ascoltatori e spesso appassiona più i giornalisti. Qualcuno ha fatto notare che un intervento l'altra sera da Gad Lerner di Massimo Pini, che è sostanzialmente del gruppo Ligresti, che controlla, che ha una quota di azione del Corriere della Sera, sull'andamento delle vendite del Corriere della Sera e sul fatto che il Corriere della Sera negli ultimi tempi si è messo a fare il kingmaker della politica con ambizioni, diciamo, di decidere le sorti della politica italiana, fosse una sorta di avvertimento a Mieli che il suo tempo sta per scadere. Anche lei lo interpreta in questo modo? Ma insomma il Corriere della Sera è un po' come la Nazionale di calcio, e ci sono ogni 20 giorni c'è un nuovo direttore, una nuova strategia. No, io penso che ci sia un problema complessivo dell'editoria italiana, penso che i più grandi hanno problemi maggiori, c'è ci sono voci ogni giorno di cambi di direttore al Corriere della Sera, alla Stampa, a Repubblica. Quanti direttori ormai sono passati negli ultimi due mesi, insomma, certamente siamo di fronte a un passaggio cruciale nella vita editoriale del nostro paese. Poi insomma adesso vediamo se, come si dice, l'effetto domino causato dalla RAI sia vero oppure no. Ma c'è davvero un ruolo del governo secondo lei anche in queste cose oppure no? Beh, certamente c'è un ruolo c'è un ruolo politico di osservatore e nel caso diciamo della Presidente del Consiglio attuale c'è anche un problema proprio anche di presenza editoriale molto significativa, quindi c'è, da questo punto di vista il conflitto di interessi è un macigno che è insostenibile da questo punto di vista. Bene, grazie. Del Sole 24 Ore che è al centro di questa querela, no? Vabbè, anche sì, insomma, per adesso no, se dovesse poi presentarsi la questione del Corriere della Sera, ma insomma sono voci, come lei ha detto, che si rincorrono ormai da mesi e che non hanno conferma. La ringrazio, grazie a Claudio Caprara che è il direttore di Rete TV. 800 24 00 24, andiamo in provincia di Milano con Maurizio, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Sì, io ho ascoltato con attenzione ciò che ha detto Caprara, ha detto quel signore precedente. A proposito della proposta di Berlusconi dell'ampliamento delle case, tutto quanto, sì. Io non sono meravigliato di queste sue, io le chiamo sparate, nel senso che ormai sono abituato a sentire questa mattina una cosa e domani mattina un'altra da Berlusconi, per cui non è che mi non c'è nulla da scandalizzarsi. Vabbè, insomma, io diciamo il piano casa alla fine si fa, non è che non si fa. Ho capito, poi ma lui aveva dato, sembrava sì, qui, il 20-30% per tutti, sì, per tutti. Come fa di solito, poi adesso invece ci sarà soltanto le villettine, le villette. Ma, beh, sono quasi il 50% degli italiani, non è un. Non riguarderà poche persone comunque. Ho capito, per me avrebbero diritto tutti gli italiani, però voglio dire che questo signore si rimangia la parola continuamente. Al di là di questo, che io volevo soltanto fare l'accento su questo, ma quello che è più... è una cosa assurda che in Italia abbiamo un Presidente del Consiglio che ci viene a raccontare un pochettino di ballette, però quando ha bisogno lui di farsi qualche legge, vedi Lodo Alfano, ci mette 15 giorni a farlo, forse nemmeno. Cioè lei dice che quando il Cavaliere parla della democrazia che non sa decidere, della lentezza della politica, del Parlamento, così poi però quando bisogna prendere alcune decisioni il Parlamento è molto rapido. Lui non deve essere giudicato, il Parlamento 13 giorni, 15 giorni, in confezione una legge bellissima, no? della quale io mi vergogno assolutamente. Vabbè, insomma, questo è un altro discorso, qui siamo nell'oggetto della discussione e non apriamo il discorso su Lodo Alfano perché insomma l'abbiamo già fatto. E non lo riapriamo finché non ci sarà la famosa sentenza della Corte Costituzionale, quando ci sarà. La ringrazio molto, Maurizio. Luca dalla provincia di Treviso, eccoci qua. Pronto? Buonasera. Buonasera signor Cruciani, intanto complimenti per la trasmissione. Dica pure. Che seguo ogni sera ed è molto interessante. Volevo intervenire sull'argomento della candidatura dell'attuale Presidente del Consiglio per quello che riguarda le elezioni europee. Sì. Ed esprimere questo pensiero che mi sembra anche semplice lineare. Intanto è evidente che c'è l'incompatibilità per quello che riguarda eventualmente se il Presidente venisse eletto non potrebbe nello suo stato appunto di Presidente del Consiglio diventare parlamentare europeo. E questo è un elemento che seppur concesso in Italia un po' rappresenta quello che è il teatro della politica italiana, in cui l'elemento di traino e di rappresentanza conta molto di più che l'elemento di sostanza, ecco. Sì, guardi, secondo me la questione è il modo in cui in Italia, l'abbiamo detto già ieri, sono concepite, pensate le elezioni, diciamo, intermedie che ci sono tra le politiche, tra due elezioni politiche. Cioè c'è sempre una resa dei conti, una battaglia infinita, uno scontro, una prova da superare, sia in questo caso per il Partito Democratico, sia per il PDL che si è appena formato. In questo modo vengono concepite le elezioni europee. In tutti gli altri paesi se ne fregano, perché poi hanno coscienza di quello che significa stare al Parlamento europeo. Insomma, non ne parliamo, perché per me andrebbe cancellato, si figuri un po'. Giuseppe da Modena, buonasera. Sì, pronto, buonasera, dottor Cruciani. Dica. Io aprirei l'intervento con una domanda che le rivolgo. Nel commentare la conferenza stampa di Brunetta, lei ha detto che Brunetta è solito non avere peli sulla lingua, giusto? Ma sì, insomma, adesso rispetto ad altri politici, poi uno può giudicare se è bello o no avere un ministro che ha questo tipo di... Ecco. Io le chiedo, nelle sue parole io ho notato una punta di, non dico di ammirazione, ma comunque di consenso nei confronti di questo atteggiamento. Le chiedo conferma a riguardo. Ma adesso dipende poi, non, ma insomma è noto per chi ci ascolta, io non ho certamente antipatia nei confronti di Brunetta, poi per quello che fa, il resto non è interessante sapere se una persona ti sta a pelle simpatica o meno. Secondo me è un buon ministro, un ottimo ministro, peraltro il consenso che ha lo dimostra. Sì, certamente. Voglio dire, nella storia della politica hanno avuto consenso moltissime persone che si sono rivelate essere peggiori di quello che si pensavano essere, ma comunque... Tipo Hitler, dice lei. Sì, ma senza ricorrere necessariamente a lui, però anche, perché no. Però quello che io volevo notare è un'altra cosa, che oggi, secondo me, e mi scusi se faccio una riflessione che forse per lei non è sufficientemente sofisticata, però certa maleducazione, certo imbarbarimento del linguaggio passa come una graziosa eccentricità. E io penso che da parte di alcuni soggetti che comunque dovrebbero rappresentare credo l'eccellenza, insomma, credo che la classe politica o dirigente comunque dovrebbe essere espressione di eccellenza, non contribuiscano a rendere il dibattito, il dialogo e il tono del confronto alto. Ho capito, c'era un bel articolo nei giorni scorsi di Michele Serra su questo, non so se l'ho letto su Repubblica. Mentre tutti esaltano appunto il Brunetta, scriveva Serra, il Brunetta che non ha peli sulla lingua eccetera, invece bisognerebbe fare, scriveva sempre Serra, l'elogio della sobrietà, cioè fare il ministro come un saltimbanco, questa era l'interpretazione di Serra, con battute, cose eccetera, in realtà fa perdere serietà alla figura del ministro, che invece dovrebbe avere un atteggiamento più sobrio, più composto eccetera. Io ci ho riflettuto, ma non sono d'accordo. Titoli del TG5. Piano casa, il governo accantona l'idea del decreto legge. Berlusconi, pronti a confrontarci con le regioni? Vogliamo sintonia. I governatori, è la strada giusta. Sì ai Tremonti Bond e ai fondi di garanzia per le piccole imprese. Confindustria, nessun alibi per le banche. Tremonti, rilanciare il credito. Profumo, rispettati gli impegni. Il ministro Ronchi a Bucarest, impegno comune tra Italia e Romania contro la criminalità. I due paesi lavorino per la piena integrazione. Brutta sorpresa per una signora milanese, acquista due cellulari e una chiavetta per internet per i nipoti e dopo due mesi le recapitano una bolletta record di 46.000 euro. Due dottoresse del pronto soccorso di Vittorio Veneto si picchiano selvaggiamente di fronte ai colleghi, infermieri e pazienti. Scoprirete perché se le sono date. Dove scontare una pena per spaccio di droga, ma il giudice di Viterbo gli concede i domiciliari. Deve accudire il cane, senza il padrone morirebbe. Beh, insomma, conclusione scontata del TG5 nel titolo con la notizia incredibile di Viterbo. Sentiamo anche i titoli del TG1. Slitta il piano casa, no di molte regioni al decreto, si cercherà un'intesa fino a martedì. Berlusconi, aperti al dialogo. Bossi al TG1, no a liti con le regioni, Berlusconi mi ha assicurato che le ascolterà. Franceschini, marcia indietro del governo. Filippine, la minaccia dei militanti islamici, uccideremo uno dei tre volontari della Croce Rossa, tra di loro un italiano. Ad una famiglia milanese bolletta del telefono da 46.000 euro, la Telecom, errore del cliente, l'abbiamo annullata. Chiede di essere cremato all'aperto, battaglia di un indù contro la legge britannica, il divieto sostiene viola i diritti umani. Al Colosseo, grande mostra dedicata all'imperatore Vespasiano, un omaggio agli splendori della Roma imperiale. Bene, bene, andiamo a Monza da Mauro, buonasera. Buonasera, senatore Ciani, mi sente? La sento, dica. Senta, niente, io ho ascoltato prima la notizia dei 150 miliardi di euro dei Tremonti Bond. Ero in auto, ho fatto un piccolo conto. Sì. Mi sono detto, ma ci sono circa 30 milioni di lavoratori in Italia, se divido la cifra per 30 milioni scopro che sono 5.000 euro per persona. A questo punto mi sono detto, ma visto che il problema dell'industria non è tanto quello di produrre quanto quello di vendere perché manca il potere d'acquisto, molto elementarmente mi sono detto, ma questi soldi forse è più giusto che vadano ai consumatori che alle aziende, che non hanno il problema di produrre ma di vendere. Che alle banche, dice lei. Guardi, non è che sia una regalia, non è che abbiamo stampato soldi per dare alle banche. Mauro, forse lei non ha ben inteso cosa significa un bond o in questo caso i Tremonti Bond. Non è che siano regalie alle banche, sono sostanzialmente dei prestiti anche piuttosto onerosi, insomma, per cui non sono soldi dati a prestito, adesso la dico in maniera piuttosto rozza, per cui non è come dare dei soldi, non è che l'alternativa sia mettere dei soldi in busta paga ai lavoratori, non so se ha capito. Sì, no, questo è chiaro. La mia era solo una piccola osservazione perché mi sembra di notare che la causa della crisi è proprio quella che manca il potere d'acquisto. Facendo un esempio, la Fiat non ha il problema di produrre più auto, ha il problema di vendere quelle che ha. Sì, certo. E quindi certo. Si cerca di sistemare un attimino una crisi forse con delle soluzioni che potrebbero andare in altri versi. No, ma lei ha perfettamente ragione, bisogna stimolare la domanda, bisogna spendere, bisogna che si rimetta in moto questo meccanismo, non c'è dubbio. Qui però si sta parlando di un'altra partita, poi lei dice sul fronte importante dei consumi si fa poco per stimolare la domanda. C'è un altro fronte che è quello delle possibili difficoltà delle banche e dunque dei Tremonti Bond, però sono due partite, diciamo, parallele. La ringrazio, andiamo allora a risentire l'ascoltatore da Modena, Giuseppe. prego. Sì, no, io volevo concludere rapidamente solo l'intervento dicendo che in un momento, secondo me, in cui andiamo verso una difficoltà grandi anche dal punto di vista sociale, che bisogna vedere poi, poi a me le previsioni di questo tipo non sono mai piaciute, il catastrofismo così non è mai... Ma voglio dire tanti anni fa la Democrazia Cristiana accusava il Partito Comunista di spaccare il paese fondamentalmente, no? Mentre si proponeva come partito interclassista, e quello che sta facendo Brunetta con alcuni suoi interventi, in cui secondo me poi anche si esprime per il suo scarso spessore anche dal punto di vista, non so come dire, accademico, nel senso che non mi sembra esattamente scienziato quando poi va a esprimere determinati argomenti. Secondo me, voglio dire, non insisto su questo, però voglio dire, quello, il rischio grande è di inasprire una situazione che già di per sé comunque, io credo, lei dottor Cosani, non sia facile. L'altra cosa che invece le chiedo, qui a questo punto lei di sicuro smentirà, però mi interessa sapere cosa ne pensa, è questa. Molti economisti non particolarmente ideologici, non particolarmente radicali, hanno sostenuto e sostengono che l'economia marginale abbia una fine, abbia un epilogo prima o poi, e alcuni anche di questi stanno sostenendo che la crisi attuale è una crisi strutturale, non è una crisi ciclica. E mi chiedo perché nel dibattito quotidiano questa cosa non venga presa in considerazione. Non lo so perché certamente il dibattito è da questo punto di vista è un dibattito molto alto, naturalmente non può essere un dibattito, un grande dibattito pubblico. La crisi è strutturale, di sistema? Io non lo credo, perché credo che il mercato e il capitalismo, così come l'abbiamo conosciuto negli ultimi 20 anni, sopravviverà, oppure è una crisi congiunturale. Sì, capisco l'importanza, per magari lei si occupa di queste cose, di un dibattito di questo tipo, però insomma è evidente che per il grande pubblico non è il dibattito che interessa di più. Dove andiamo? Dunque, eravamo con Giuseppe da Modena, Roberto da Bologna. Roberto, buonasera. Sì, buonasera dottor Cruciani. No, niente, io volevo solamente sottoporre un paio magari di progetti che possono integrare sia quello del piano casa di Berlusconi che magari quello del credito, poi vorrei anche il suo parere in merito. Diciamo che per quello che è il piano casa, oltre al fatto di aumentare del 20% ovviamente con le dovute modifiche solamente abitazioni che siano in periferia o comunque monofamiliari, quindi villette e ville, quello di integrare con un piano di edilizia convenzionata che va poi a aiutare tutti quelli che poi non hanno la casa, non ce l'hanno, ecco. Quindi di conseguenza con i comuni che hanno già dei piani regolatori che prevedono dei terreni edificabili, i quali concedono magari qualche agevolazione in più all'impresa costruttrice, che a sua volta poi concederà qualche agevolazione in più a chi compra la casa. Questa potrebbe essere un'idea in più, dico io. Sì, no, devo dire che questi programmi di cui lei parla, di edilizia convenzionata, eccetera, eccetera, una roba vecchissima dal punto di vista, come dire, concettuale, ideologico e filosofico, poi sono cose, queste davvero di attinenza specifica, come peraltro anche la modifica delle cubature, delle regioni, appunto, e dei vari enti locali. La ringrazio. 2014 800 24 0024 Guglielmo da Bologna, buonasera. Pronto? Dica. Buonasera. Io volevo rispondere a quel signore, il direttore di Red TV. Una considerazione velocissima che mi è venuta in mente adesso. Cosa vuol dire Red TV? Io sono italiano e parlo italiano. Fine. Dopodiché volevo parlare di conflitto di interessi con questo signore. Lui appartiene, immagino, a un partito che deriva le sue origini dal PC, immagino, e dovrebbe guardarsi un attimino in casa, perché io non sono vecchio, ma non sono neanche giovanissimo, ho 48 anni, e io mi ricordo in televisione, quando ero ragazzo, che vedevo i dirigenti del PC, ripresi dal telegiornale italiano, che prendevano l'aereo dell'Aeroflot per andare a Mosca a sentirsi dire che cosa fare dai dirigenti di una nazione ostile alla nostra. Sì, scusi, però Guglielmo, abbia pazienza, adesso con tutta la comprensione di questo mondo, ma non ci possiamo mettere a parlare di queste cose. Davvero io lo dico con con semplicità, così, con grande pazienza e con grande franchezza, ma anche con decisione nello stesso tempo. Non, che ce ne frega a noi di ricordare ancora i dirigenti del PC, Mosca, le cose, che importanza ha? Cosa c'entra la Red TV con Massimo, di Massimo Caprara, con queste cose qui? Non capisco, mi spieghi meglio, perché altrimenti sono chiacchiere veramente da che non ci portano a nulla. Quello che voglio dire io è che la nostra opposizione, purtroppo, ha tanti scheletri nell'armadio. Guardi, già so quello che lei vuole dire. Ha tanti scheletri nell'armadio, il Partito Comunista, le cose così, che non può parlare. Dovrebbero stare zitti e basta. No, non dovrebbero stare zitti, dovrebbero semplicemente rinnovarsi. Man mano che moriranno i vecchi, sì, quelli che hanno le tre radici di buona memoria, vabbè, non resterà più nessuno a sostenerli, è inevitabile. O va, si rinnovano veramente, o non vanno da nessuna parte. Va bene, sono veramente preoccupato. Sì. Solo con la maggioranza, ci vuole anche l'opposizione. Va bene, d'accordo, questo è un altro ragionamento sull'efficacia dell'opposizione, ma la questione dei trinariciuti, cioè o la spieghiamo meglio, la tradizione comunista, l'ideologia, il fondamentalismo in alcuni casi nei confronti di Berlusconi, ma, però insomma, non lo so. Come mi stanca parlare del conflitto di interessi di Berlusconi, mi stanca parlare pure di queste cose. Giuseppe da Vercelli, buonasera. Buonasera. Dica. Io volevo fare un intervento a proposito della candidatura di Berlusconi alle elezioni europee, che è incompatibile. E lei diceva che da 15 anni che sia candidati di destra e di sinistra lo fanno. E questo probabilmente non è né onesto né corretto, però ci sono altre cose che vanno avanti da 15 anni che non sono né oneste né corrette, e soprattutto riguardano le tasche di tutti i cittadini italiani, che la Comunità Europea ha già dichiarato essere illegali e ha avviato procedure di infrazioni molti anni fa, e sia governi di destra che di sinistra continuano con questa che è la più grossa truffa mai organizzata. Una radio come la vostra dovrebbe parlarne. Di che sta parlando? Sto parlando del 7% della bolletta elettrica che ogni mese viene prelevato dalle nostre tasche e utilizzato per finanziare gli inceneritori che bruciano rifiuti e chi brucia gli scarti di lavorazione del petrolio. Sì, Giuseppe, diciamo che non è questa la sede per parlare di queste cose qui in questo momento, in altri programmi ne abbiamo parlato e abbiamo affrontato questa questione. Lei è passato dalla candidatura di Berlusconi all'Europea, un problema molto più grande, molto più importante, che il modo con cui vengono utilizzati alcuni fondi. Vuole concludere? No, ho concluso, spero che parlerete un giorno di questo che riguarda le tasche di ogni cittadino italiano. Va bene, ne parleremo, non si preoccupi, la ringrazio. È con noi Pierluigi Castagnetti del Partito Democratico. Onorevole Castagnetti, buonasera. Buonasera. Eccoci qui. Allora, questa mattina durante la trasmissione di Giuliano Ferrara, a un certo punto, parlando, erano ospiti alcuni giovani del Partito Democratico che lei sicuramente conosce, Francesco Boccia e altri due Civati, insomma persone che fanno politica da poco tempo, e si parlava insomma della nuova leva all'interno del Partito Democratico. A un certo punto Ferrara ha detto, beh, insomma, farà discutere una cosa che ha detto Castagnetti oggi al Corriere della Sera. La leggo, ma insomma lei l'avrà letta. Sicuramente non so se la conferma al 100%. No, immaginavo. Allora, il titolo è questo: per noi il capo è il Papa. E questo è il riassunto che fa il Corriere della Sera. Gli ex DS fanno fatica a capire quelli che per noi sono passi da gigante, come passi in avanti fatti sul testamento biologico, per loro sono passettini. Noi non abbiamo una tradizione socialdemocratico comunista, non facciamo parte di un filone culturale, noi abbiamo due appartenenze, una alla Chiesa, l'altra alla politica. Per me, come per Franceschini, per tutti noi cattolici, insomma, il vero capo è lui, il Papa. Per noi è il vicario di Dio in terra, e questo gli ex DS dovrebbero alla fine comprenderlo. Naturalmente, di fronte a una cosa virgolettata di questo tipo, il commento per esempio dell'onorevole Boccia è stato, ma insomma, adesso ci manca pure la corrente Ratzinger all'interno del Partito Democratico. Insomma, lei questa frase, per noi il capo è il Papa, l'ha pronunciata oppure no? No, ma guardi, io ho detto semplicemente quello che posso ripetere adesso. Nel pomeriggio ho avuto modo di chiarirmi ancora con la giornalista che ha fatto quell'articolo. Io ho detto i credenti che fanno politica hanno qualche fatica in più, nel senso che debbono conciliare due appartenenze, cioè la fede non è una tradizione culturale, non è che essere cristiani è come essere, come dire, liberali, ecologisti, socialdemocratici, insomma, quella è una fede, c'è una chiesa, quindi noi apparteniamo contemporaneamente alla chiesa e apparteniamo contemporaneamente alla comunità dei cittadini che è rappresentata dallo Stato. Qualcuno pensa che si possa fare una distinzione tra questi due piani? Molti lo sostengono, io personalmente credo di no, perché ognuno porta nella politica naturalmente, certo, anche la propria... Ma c'è una mediazione che è necessaria. E allora, parlando della comunità dei credenti, c'è la comunità dei credenti e la comunità dei cittadini, e si fa parte di entrambe. Nella comunità dei credenti è evidente che, siccome era stato richiesto di chi è il capo, è il capo è il Papa, nella comunità della Chiesa il capo è il Papa. Ma questo non vuole assolutamente dire che il nostro capo quando facciamo politica, insomma, quando facciamo politica siamo responsabili di quello che facciamo, siamo stati creati esseri liberi e soprattutto responsabili proprio perché dobbiamo assumerci fino in fondo la responsabilità di quello Dunque che facciamo. Dunque lei non ha detto il vero capo è lui, il Papa. Il capo è lui nella comunità dei credenti, cioè sì, nella Chiesa, lo confermo, ma insomma... No, ma va da sé per un cristiano, per un cattolico, naturalmente queste cose. Il modo in cui il Corriere della Sera l'ha presentato sembrava che lei dicesse anche in politica certo, la mia prima guida è il Papa. Ma scherziamo, insomma, contemporaneamente oggi uscivo un mio articolo di cui porto fino in fondo la responsabilità perché l'ho scritto io. Su Europa, se non sbaglio. Ecco, in cui sostengo cose ben diverse. Insomma, io non faccio politica da oggi, non sono conosciuto da oggi, un'affermazione del genere non l'ho mai detta, ma è anche uno strafalcio dal punto di vista come dire teologico, non solo culturale, politico, insomma. Ecco, la cosa che mi incuriosisce è questa. Questa mattina, dopo l'uscita di questo articolo, quante persone l'hanno chiamata anche all'interno dei suoi colleghi, non diciamo cattolici del Partito Democratico, comunque? Insomma, diciamo che per il rispetto che insomma di cui godo un po', insomma, nessuno mi ha nemmeno chiesto chiarimenti, ma sono stato io a darli, ma soprattutto ai miei colleghi credenti che con me condividono questa esperienza all'interno del Partito Democratico e con i quali abbiamo sempre discusso di questi problemi. Io sostengo appunto che i credenti hanno qualche fatica in più appunto perché devono conciliare due forme di appartenenza, due realtà, due comunità di cui sono membri a pieno titolo, insomma, ecco, ma questo non ho capito. No, ma lei, la cosa interessante è quando lei dice noi credenti che facciamo politica una fatica in più perché dobbiamo conciliare queste due dimensioni. Certo, ma senta, le posso chiedere una cosa? Oggi sempre sui giornali, approfitto della sua presenza a proposito del ruolo della Chiesa anche nelle cose politiche, nel dibattito politico, sembra a leggere per esempio le vicende che riguardano la RAI, nella persona di, non lo so, di alcuni prelati, in alcuni incontri, eccetera, faccia pressione perché ci siano alcuni uomini di quell'area, di area cattolica, all'interno della dirigenza della RAI. Ora, questo secondo lei avviene poi concretamente sul serio oppure no? Secondo me non avviene e non deve avvenire, perché non è competenza del Vaticano occuparsi di queste cose. Queste cose appartengono pienamente all'autonomia dello Stato italiano per quanto riguarda appunto competenze dello Stato, e comunque nella fattispecie è un'azienda privata, non deve interferire neppure la politica, ma ancora a minor titoli un rappresentante. Dunque lei non esclude che questo possa avvenire poi in realtà? Ma guardi, nella realtà avvengono tante cose, ma anche tante cose che non devono avvenire. A me non risulta che stia avvenendo una cosa del genere. In ogni caso non la condividerei. La ringrazio moltissimo, buonasera. Niente, buonasera. 20:27, 800 24 00 24, questa osservazione sulla doppia dimensione, sulla fatica in più che devono fare i cattolici che sono in politica nel conciliare due appartenenze diverse ad una che è quella nella casa della Chiesa e un'altra nella casa dei partiti politici. Andiamo ad Andrea, provincia di Lucca. Buonasera. Buonasera, salve dottore. Ascolti, io volevo intervenire in merito al piano casa e niente, ecco, volevo dire appunto che sono un po' solidale con Ferrara, perché questa marcia indietro da parte del governo non è, diciamo, che gli abbia fatto molto bene, ecco, al governo. Ah, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Ecco, ascolti, niente, io volevo dire appunto che magari prima di mandare queste lettere anche alle regioni, credo, e niente, ecco, volevo dire magari se il premier Berlusconi magari aveva convocato le regioni, aveva parlato con gli enti, aveva trovato, diciamo, un accordo serio, perché indubbiamente un piano casa magari fa bene anche all'edilizia, sicuramente ci vuole, diciamo, per l'economia, ecco, soprattutto ora, sì, questo momento di crisi. Però ecco, dicevo, magari se aveva convocato prima le regioni, aveva parlato, avevano trovato un piano serio, un accordo, ecco, sicuramente insomma, era meglio, era meglio. Sì, Andrea, probabilmente è come dice lei, diciamo che la politica, in particolare quella di Berlusconi, funziona in modo piuttosto diverso. Ripeto, questa vicenda del piano casa è nata da un colloquio, da una passeggiata con Ghedini, poi Berlusconi l'ha subito sventolata ai 420 e poi le difficoltà concrete della politica sono venute avanti. Sentiamo i titoli del TG2. Berlusconi sul piano casa dopo l'incontro con le regioni. Pronti a confrontarci, vogliamo sintonia. Al via un tavolo tecnico. Il PD, aspettiamo il nuovo testo. Biotestamento. Al Senato bocciato l'emendamento del PD che prevedeva lo stop all'idratazione e all'alimentazione. Sacconi, mai più un caso Englaro. Domani il voto finale. Fini e l'opinione su Mussolini. Grande statista? Non lo penso più, dice il presidente della Camera. Lo dimostra, aggiunge, ciò che ho fatto in questi anni. In Francia un manager di un'azienda farmaceutica è stato chiuso nel suo ufficio dai dipendenti. L'accusa, troppi licenziamenti. In Scozia assalita la casa di un ex banchiere. A Milano ho ricevuto una bolletta da 46.000 euro per l'uso di due cellulari e una chiavetta internet. Secondo la compagnia telefonica, l'utente aveva commesso degli errori sull'uso della SIM e comunque ha annullato il maxi pagamento. Va bene, andiamo in provincia di Ancona. Roberto, buonasera. Da. Dica. Allora, io volevo intervenire su quello che tu hai detto prima riguardo alla pena di morte in Cina. Prima di tutti volevo io sono per certi reati sono favorevole anche in Italia. E non è perché sono di destra, nessun partito, perché il casino che c'è non è una questione ideologica, per carità. Però di solito le domande che ci fanno. Che casino c'è poi, non ho capito? Vabbè, in politica, senti questi partiti, no? Sì, il casino così, specifico. Io voto in base alla persona, quello che vabbè. C'è casino. Non c'è qualcosa di chiaro, diciamo, no? Vabbè, lo so, bisogna vedere con che occhi, esatto, uno vede le cose, insomma. Esatto, sì, ma io ci vedo chiaro, però, poi qualcuno vede casino, io vedo chiaro, però. Sì, perfettamente, no, però io volevo dire, perché non è che dici uno è favorevole alla pena di morte perché è di destra. No, per carità. La solita cosa. Io non dico per quello lì. Io volevo intervenire su questo fatto qua per dire che allora, per certi reati sono favorevole, tipo l'omicidio volontario, naturalmente. Tu procona, no? Perché allora mi è rimasto impresso, sai, una cosa che te la dico molto velocemente. Sì, io la dico, mi dia del lei, io le do del lei, sì, mi dà lei, così è meglio. No, beh, allora te la dico velocemente. Ancora. Allora, 15 anni, tipo 10 o 15 anni fa, negli Stati Uniti c'era uno condannato a morte perché aveva violentato la madre e aveva ucciso i tre figli. Sì. Beh, fuori c'erano delle persone che erano contro la pena di morte. Cioè, sì, ero lì. Se la lei ammazzava lei direttamente. Anche quelli fuori, anche quelli fuori. Anche, quelli fuori la pena di morte, fuori, perché no? Certo. Dato che ci siamo, sì, perché certo. Vabbè, adesso c'è il limite a tutto. Però no, io volevo dire, questa qua là. In questo caso non c'è limite a niente, secondo me. No, però senti, allora c'era questa. Lei, mi scusi un attimo, lei, io capisco perché, insomma, ho dimestichezza con quei luoghi, che il tu sia un'espressione comune, sì. Ma lei proprio non ci riesce a dare del lei alle persone, lasci perdere, adesso non ne faccio una questione di... No, io ci resto perfettamente, sì, no, Allora, io comunque ritornando a noi, no? Adesso ho un po' divagato. Sì. Allora, di solito quella... E che divagazione? Allora, poi no, così. Allora, no, però, allora, di solito quella domanda sempre che viene fatta è, no, se non c'è, se dove c'è la pena di morte i reati non sono mai calati, no? Mm. Allora io ne faccio un'altra domanda. Ma se non c'era la pena di morte, no? Sì. I reati erano di più o di meno? Perché capite, è facile saperlo, Roberto. La ringrazio molto, proseguirei con lei la telefonata per tutta la sera, è evidente. Poi chissà dove andiamo a finire, immediatamente in qualche... Forse ci arrestano, forse andiamo a finire in qualche blob dappertutto. La ringrazio molto del suo intervento. Lei è favorevole alla pena di morte, vabbè, insomma. Me ne faccio una ragione che lei è favorevole, ma... Io sono totalmente contrario. Alessandro da Napoli, poi Ettore da provincia di Cremona, Fernando da Chieti, andiamo. Veloci gli interventi, sì, perché siamo verso la conclusione, dica. Buonasera Cruciani, niente, pare che il Premier si sia ravveduto un pochettino e vorrebbe fare il confronto, adesso non si sa, a voce, per telefono, con i governatori. Nei giorni scorsi c'è stata grande polemica per, come al solito, quando lui butta quelle sue sparate, quelle sue idee. Adesso io dico questo: se questo qua vuole fare sto confronto, insomma, non gli sta nemmeno bene all'opposizione che faccia il confronto. Insomma, io penso che sia ridicolo. Io non ci vedo niente di strano, evidentemente. Veramente l'opposizione credo che sia d'accordo sul confronto con le regioni, per cui non mi pare che sia... Che... Ma è sempre un gioco delle parti in questo caso, no? Naturalmente, sì, però, per carità. Del tempo. Pare che lui si sia ravveduto, io non ci vedo niente di male, perché sennò qua non ne usciamo da sta storia. Tutto qua era... Va bene, la ringrazio. Interventi velocissimi, davvero veloci, dei flash. Walter d'Alessandria. Walter, dica. Buonasera dottor Cruciani, la chiamo in merito alla legge, non vorrei sbagliarmi, ma dovrebbe essere la legge 20, l'articolo 26 bis firmato Tremonti, che obbliga i comuni dal 2010, non vorrei sbagliarmi adesso, non obbliga i comuni a dare in gestione a società private l'acqua pubblica. Io trovo questo veramente pericoloso e grave, in quanto l'acqua è un diritto. Ma non è che tolgono l'acqua alle persone, cioè, No, non la tolgono. È la gestione, è la gestione, è una cosa diversa. Bravissimo. Infatti, se ne discusse molto che... anche sotto il governo di Romano Prodi, le famose liberalizzazioni dei servizi pubblici locali. Io non so se non va liberalizzata l'acqua, per me va liberalizzato tutto, anche l'acqua, si figuri un po' come la penso. Per cui non è, però è un argomento molto interessante quello dell'acqua, perché ci hanno scritto anche diversi ascoltatori e ne parleremo domani. Dunque Walter, la invito già direttamente domani se vuole. Alessandro da Milano, veloci. Sì, buonasera. Dica. Un intervento velocissimo. Dunque, io sono titolare di attività commerciale, si parla tanto di crisi della domanda, eccetera. Noi che operiamo in questo settore vediamo che la maggior problematica è l'insolvenza sui crediti. Un cliente dalla Germania mi dice che in Germania c'è una legge per cui ha fatture scadute se il debitore non paga, sì, per legge ricorre in una procedura di fallimento entro un tot di tempo. Sì, i tempi sono più veloci, lei dice. No, non sono solo più veloci, diciamo che in Italia i tempi sono impossibili, perché fare una procedura... Non c'è dubbio, cioè recuperare un credito in Italia è un'impresa titanica, spesso ci si rinuncia, no? Io ci ho rinunciato, io ci rinuncio. Bene, grazie Alessandro. I legali sono molto più alti. Assolutamente, è un problema molto serio. Ci sentiamo domani, 18:30, ciao. La Zanzara.